Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Dunque, i mercati sono leggermente, anzi nel caso di Francoforte più che positivi, più 1,80%, Parigi più 1,3%, Milano oscilla, guadagnava l'1,20% circa un'ora fa, adesso siamo più 0,90%, euro quota 1,41,38, in realtà questa mattina si era temuto forse eccessivo, ma c'era stato uno scivolone abbastanza pesante di Intesa San Paolo, perdeva oltre il 3%, poi il titolo in realtà ha recuperato tutto e questo vale solo, non vale solo per Intesa, ma vale anche in generale per gli altri bancari, e adesso sta per chiudere in positivo, più 0,40% in questo momento. Di negativo c'è solo Buzzi Unice, meno 3,80%, Autogrill meno 1,1%, Enel Green Power meno 0,50%, in recupero tutti i bancari, dicevo, non tantissimo, Unicredit più 0,11% e ancora Ubibanca più 0,80%, Monte dei Paschi più 0,90%, Mediobanca più 1%, Banco Popolare più 1,1%. Usciranno alle 18.05, 18.23 minuti i dati sulle immatricolazioni auto nel mese di marzo, e il titolo Fiat, inteso come Fiat Auto, guadagna il 2,70%, bene anche Fiat Industrial, quindi camion e trattori più 1,80%, Exor più 2,90%, Mediolanum più 2,80%, Prismian più 2,60%, Tenaris più 1,90%, come Diasorin, Popolare di Milano, l'abbiamo detta, e Eni, scusatemi, più 1,60% come l'automatica. Di cosa ci occuperemo oggi? Quindi qual è la cronaca della giornata economico-finanziaria? C'è il dato italiano sulla disoccupazione, che è un dato in realtà da leggere sotto due profili. Quella sul 2010 è obiettivamente un dato, il dato peggiore quanto a disoccupazione dal 2004. La disoccupazione nel 2010 ha toccato l'8,4%. E ci sono stati 153.000 occupati in meno. Il dato che fa sperare almeno è quello relativo a febbraio, perché il tasso di disoccupazione a febbraio è sceso rispetto a gennaio dall'8,6% all'8,4%, ed è scesa anche la disoccupazione giovanile a febbraio, l'1,3% in meno, cioè scende a 28,1%, sempre una soglia molto alta, ma comunque è un segnale. E di questo parleremo anche del, visto che ieri non ci siamo riusciti, degli effetti, delle ricadute che potrebbe avere il risarcimento record stabilito dal Tribunale di Genova per 15 precari della scuola, perché ci si attende che arrivino altre migliaia di ricorsi. E poi tratteremo il tema delle imprese italiane che vincono commesse. Ieri è arrivata in serata la notizia di una commessa importantissima da parte del gruppo Salini-Todini, 3 miliardi e mezzo, da quello che si vede la più grande commessa mai vinta da un'impresa italiana all'estero, per costruire una diga al confine tra la Somalia e l'Etiopia. Diga importantissima, è più etiope che somala, diciamo, è al confine. Un progetto che permetterà, avranno ricaduta su 10.000 occupati italiani. Complessivamente intervisteremo più avanti il numero uno della Salini Costruzioni. Poi, sempre per quello che riguarda le imprese italiane all'estero o le imprese estere in Italia, parleremo alle 18.10 del decreto anti o salva Parmalat o anti OPA, e ne parleremo con chi ha risanato uno dei due gruppi andati in crisi a inizio anni 2000. Una era Parma, tra l'altro era Cirio. Mi riferisco all'allora commissario della Cirio, Mario Resca, che veniva da un'esperienza di presidente di McDonald's Italia, poi adesso lavora al Ministero per i Beni Culturali. Ma insomma, sentire anche come si risana e come si tutela l'italianità di un gruppo nel settore agroalimentare. 349-238-6666 per i vostri SMS. Rapidamente le altre notizie in breve. poco mosso, $1,430 l'oncia. Petrolio invece in rialzo di nuovo e anche a New York a $107,7 al barile, l'1% di rialzo quasi. E la Federazione Italiana dei Gestori dei Carburanti, delle pompe di benzina, mi riferisco alla FIGISC Confcommercio, ha fatto sapere per voce del suo presidente Luca Squeri che c'è da attendersi di fatto un aumento dei prezzi della benzina e anche del diesel tra un centesimo e un centesimo e mezzo al litro. Questo nei prossimi giorni. Ancora, per quello che riguarda l'economia internazionale, se da noi il dato sulla disoccupazione è molto brutto sul 2010, qualche segnale sul 2011, in America invece il tasso dei senza lavoro è sceso ai minimi da 2 anni a questa parte, ossia l'economia statunitense a marzo ha creato 216.000 nuovi posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione quindi è sceso dall'8,9% all'8,8%, appunto il livello più basso da 2 anni a questa parte, quindi non da quando è iniziata la crisi, ma da poco dopo. E devo dire che gli Stati Uniti, ma in Europa soprattutto la Germania, vanno in controcorrente su questo. La Germania è la disoccupazione più bassa degli ultimi 10 anni. E poi la politica della Banca Centrale Europea, politica sui tassi di interesse, se ne sta discutendo oggi e se ne discuterà anche domani a Cernobbio per il workshop Ambrosetti, quello diciamo primaverile. Ascoltiamo che cosa ha sostenuto l'economista, ripeto, da alcuni chiamato Mr. Doom, da altri considerato un vero e proprio guru perché è stato uno dei primi a prevedere la crisi, e mi riferisco chiaramente a Nouriel Roubini. Sui tassi di interesse, quanto alzerà secondo Roubini la Banca Centrale Europea i tassi di interesse da qui a fine anno? Capisco il ragionamento della Banca Centrale Europea, che probabilmente comincerà ad alzare i tassi di interesse ad aprile per continuare ripetutamente nel corso dell'anno. Un aumento spinto da un tasso di inflazione al di sopra dell'obiettivo fissato dalla Banca Centrale. Ci sono però 5 paesi periferici dove quasi non c'è crescita o addirittura c'è contrazione, dove ci sono gravi problemi nel settore bancario, dove c'è stata una perdita di competitività e dove occorre tornare sul cammino della crescita economica. Io temo che un aumento prematuro dei tassi possa aggravare la fragilità della crescita e peggiorare il livello di competitività a causa di un euro più forte. Per non parlare poi della debolezza del sistema bancario e dei governi stessi. Per tutte queste ragioni, considero un rischio aumentare i tassi di interesse. Così Nouriel Roubini. Per quello che riguarda invece l'Europa, è arrivato oggi un ulteriore taglio del voto al debito irlandese, operato di nuovo da Standard & Poor's, lo ha portato da A- a BB+, le implicazioni sono negative, ma l'outlook, cioè le previsioni, restano stabili. Anche l'agenzia di rating Fitch ha annunciato che potrebbe tagliare il voto al debito irlandese. Nel frattempo sono crollate alla borsa di Dublino sia Irish Life soprattutto. Il titolo è arrivato a perdere il 54%, perché ormai si ritiene che Irish Life dovrebbe essere di fatto nazionalizzata dopo gli stress test di ieri sulle banche irlandesi. Bene invece in borsa Bank of Ireland, più 41%. Ricordo che dagli stress test sulle banche irlandesi operati, diffusi ieri, per quanto restino tutte le nostre riserve, ieri abbiamo avuto anche un commento molto duro dell'economista Masciandaro, che ha detto in sostanza questi stress test non servono a niente, creano solo praterie per la speculazione e hanno una affidabilità scarsissima, sintetizzo. Da questi stress test comunque è uscito che Allied Irish Bank avrebbe bisogno di 13 miliardi, la Bank of Ireland di 5 miliardi, Irish Life di 4 miliardi, Educational Building Society di 1,5 miliardi. Questo per riportare i parametri di patrimonializzazione a un livello accettabile. Il Portogallo nel frattempo ha collocato titoli di Stato per 1.640 milioni. La domanda è stata buona ma non buonissima, una volta e mezzo l'offerta. Pensate che la volta precedente la domanda era stata due volte e mezzo l'offerta, e soprattutto il Portogallo ha dovuto portare il rendimento dei titoli di Stato dal 3,15% al 5,80%. Ed è di nuovo record sui rendimenti delle obbligazioni portoghesi a 10 anni, in rialzo all'8,48%. Non è mai stato toccato un livello del genere dai tempi della nascita dell'euro. E la differenza tra quanto rende un'obbligazione a 10 anni portoghese e un'obbligazione a 10 anni tedesca ormai ha raggiunto il 5,1%. Veniamo all'Italia. Oggi una lunga intervista della presidente Confindustria Emma Marcegaglia su Sole 24 Ore. Visto che poi ne parliamo da due settimane e ne parleremo anche più avanti, sul tema della legge salva Parmalat, del decreto che permette al Tesoro di entrare attraverso la Cassa Depositi e Prestiti dentro aziende detenute strategiche, anche per l'alto livello occupazionale, ha detto Emma Marcegaglia nell'intervista di oggi su Sole 24 Ore: resto perplessa, sono sempre per il mercato, come ho già avuto modo di dimostrare e di dichiarare. La Marcegaglia poi ha aggiunto in merito alla crisi che la crisi finanziaria, prima ed economica adesso, non è finita e torna con le sembianze di un'altra crisi finanziaria che ci riguarda come Italia e come Europa. Tutto serve tranne che le fughe solitarie di Berlino e di Parigi. Semmai servirebbe più Europa. Quanto all'Italia e alla politica italiana, ha detto Marcegaglia, il momento è drammatico. Noi non vogliamo abbandonare la speranza e perdere lo spirito di proposta e di spinta per la politica e per la società, ma lo spettacolo offerto dal Parlamento è deprimente e inaccettabile. E poi ricordo che il 7 maggio a Bergamo vi sarà le grandi assise nazionali, quindi le piccole e medie imprese e praticamente tutti gli imprenditori riuniti a Bergamo il 7 maggio prossimo. Parmalat, chiudiamo con le notizie in breve. Il Consiglio di amministrazione di Parmalat ha deciso di rinviare dal 12 aprile al 25 giugno l'assemblea degli azionisti che dovrà decidere il rinnovo dei consiglieri, nonostante i francesi di Lactalis, che hanno adesso il 29%, avessero chiesto invece di mantenere le date del 12 aprile per l'assemblea degli azionisti, e questo viene permesso anche dal decreto del governo. Infine, sciopero dei TIR per 5 giorni dal 16 al 19 maggio, questo lo ha proclamato Trasporto Unito, che ha denunciato, unica fra le associazioni dell'autotrasporto, la totale inefficienza delle misure di garanzia che il governo avrebbe dovuto fornire al settore del trasporto su gomma. 349-238-6666 per i vostri sms. Primo tema, il dato di oggi sulla disoccupazione italiana. Dicevamo, un dato che va letto in due modi: molto negativo quello sul 2010, la disoccupazione è salita a un livello record che non si vedeva dal 2004, l'8,4%, con una disoccupazione giovanile che è arrivata soprattutto negli ultimi mesi del 2010 a quasi il 30%, la media è 27,8%, ma gli ultimi tre mesi del 2010 ha toccato quasi il 30%, il 29,8%. Sono 150.000 gli occupati in meno. I dati più positivi arrivano a febbraio, dove è scesa sia la disoccupazione giovanile al 28,1% contro appunto il 29,4% di gennaio, e sia la disoccupazione complessiva è calata all'8,4% contro l'8,6% di gennaio. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento il professor Pietro Garibaldi, che insegna economia politica all'Università di Torino, direttore del collegio Caro Alberto, spesso scrive sui temi proprio dell'occupazione del mercato del lavoro. Buonasera, professore. Buonasera a voi. La nostra scheda, che spiega meglio di come non abbia fatto io, i dati consuntivi a questo punto del 2010 e anche quelli invece più prospettici sul 2011. Nel generalizzato deterioramento del mercato del lavoro che ha caratterizzato il 2010, sono stati i giovani a pagare il prezzo più alto. Tra i 15 e i 24 anni, ad essere senza lavoro è infatti quasi un giovane su tre. Ma tra le ragazze che abitano in alcune regioni del Mezzogiorno, il tasso di disoccupazione tocca addirittura il 42%. Nel complesso, il 2010 è stato caratterizzato da una diminuzione dei contratti a tempo indeterminato, che si è fatta sentire soprattutto al nord e nelle grandi industrie, e che è stata solo in parte compensata da contratti a termine e part-time. Il saldo finale è una riduzione di 153.000 occupati, con un tasso di occupazione, ossia le persone che lavorano sul totale della popolazione in età lavorativa, sceso dello 0,6% al 56,9%. Viceversa, i disoccupati sono cresciuti di 158.000 unità, toccando l'8,4%, e in aumento sono risultati anche gli inattivi, ovvero chi non ha e non cerca un lavoro, che sono oggi 14,9 milioni di persone. Per 1,5 milioni di loro, la ragione dell'abbandono della ricerca è dovuta al cosiddetto scoraggiamento in forte aumento, più 10% rispetto al 2009. Qualche nota positiva arriva dalle rilevazioni sul mercato del lavoro più recenti e relative allo scorso febbraio. Soprattutto per quel che riguarda la disoccupazione giovanile, scesa al 28,1% dal 29,4% di gennaio. Nel complesso i disoccupati sono diminuiti di 43.000 unità. Attenzione però, perché il risultato va diviso a metà tra un effettivo reinserimento nel mondo del lavoro, con una crescita di quasi 23.000 occupati, e un incremento di 21.000 unità degli inattivi. Questi dati, come sempre, la differenza tra disoccupati, cioè chi non ha lavoro cercandolo, e gli occupati, cioè chi che invece non tengono in considerazione chi il lavoro non lo cerca proprio, quindi non rientra nella categoria di disoccupato chi il lavoro non lo sta cercando. Professor Garibaldi, un primo commento a questi dati. Dicevo, insomma, il 2010 si è chiuso come temevamo, molti erano i segnali, il dato peggiore dal 2004, rispondo anche a chi dice ma come, nel 2004 però non faceva notizia. No, è un po' diverso. La disoccupazione da fine anni 90 in poi è scesa fino al 2008 continuamente, quindi è ovvio che nel 2004 era più bassa rispetto al 2003. Si va indietro con quello che è successo nel 2010, ci siamo mangiati, diciamo, la diminuzione della disoccupazione tra il 2008 e il 2004. Professore, questo la convince come? Beh sì, dunque ovviamente con la grande recessione che ha avuto il picco in realtà nel 2009, in termini di caduta del PIL, la disoccupazione continua ad aumentare anche quando la ripresa inizia, quindi noi stiamo ancora pagando, avendo le conseguenze sul mercato del lavoro della grande recessione 2008-2009. Ha avuto il picco nel 2009, perché nel ciclo economico, mentre il PIL riprende, anche se riprende in maniera un po' flemmatica come sta avvenendo adesso, l'occupazione continua a calare, la disoccupazione ad aumentare. Quindi l'aumento della disoccupazione torna a livello del 2004, comunque il peggio in Italia è il 98, che era il 12, quindi se vogliamo guardare in termini storici abbiamo avuto momenti molto peggiori, questo è giusto dirlo. Ecco, quindi la cosa che a voi studiosi del mercato del lavoro preoccupa di più è il tasso di disoccupazione, perché in effetti comunque è alto, ci siamo mangiati 4 anni di calo, però diciamo siamo come nel 2004, non siamo, diciamo, un dato drammatico, ripeto, non voglio essere frainteso, è alto, ma siamo tornati al 2004, oppure... in realtà vi preoccupa l'irrigidimento del dato, cioè che si possa restare stabilmente intorno all'8%? No, guardi, in termini proprio di tasso di disoccupazione, è un dato, col dato iniziale recessione non è un dato così brutto. Se pensiamo negli Stati Uniti, che era per anni era simbolo del mercato del lavoro flessibile, abbiamo una disoccupazione superiore, un tasso di disoccupazione superiore a quello italiano, quindi questo in termini insomma globali del mercato del lavoro deve far riflettere. Quello che a me colpisce un pochino è il calo degli occupati. Il calo degli occupati è abbastanza significativo nel 2010, è significativo ed è in particolare quello italiano. Cioè, di fondo abbiamo tenuto con una diminuzione degli occupati di 150.000 unità, che sono tanti, 150.000 posti di lavoro, ma grazie al contributo degli stranieri. Questa è la cosa che bisogna dire assolutamente. Cioè, abbiamo perso tra gli italiani 330.000 posti di lavoro, e in realtà grazie all'aumento degli occupati stranieri di 130.000 posti di lavoro si è mantenuto la cosa. Quindi questo, cioè, lei mi sta dicendo che se facessimo un'operazione in cui si va a vedere solo la quota di italiani al lavoro, il calo sarebbe molto molto più alto? Sì, è il più del doppio. Esattamente. Cioè, e 300... questo, 336.000 lo dice il comunicato. 336.000 l'occupazione italiana. Invece abbiamo creato in qualche modo 180.000 posti di lavoro stranieri. Questo è un dato che è importante ed è un trend che c'è da un pochino, che in realtà gli stranieri aiutano, stanno migliorando le statistiche del mercato. Sì, migliorano la statistica, però lo dico con massimo rispetto verso i lavoratori stranieri. È chiaro che poi però quando io vado a fare il ragionamento lo faccio per i lavoratori italiani in questo caso, e allora lei mi dice perché delle volte i lavori non sono sovrapponibili, inutile fare troppe discussioni, cioè in molti casi gli stranieri occupano posti di lavoro che gli italiani non vogliono fare, l'abbiamo detto migliaia di volte, non vorrei tornare su questo, però se uno va a vedere i lavori diciamo offerti agli italiani, lei dice il calo è di 300.000 unità, e quindi in realtà siccome però gli stranieri hanno aumentato di 150.000 gli occupati, se ho ben capito, il saldo finale italiani e stranieri fa meno 150.000, ma se guardassimo solo gli italiani sarebbe meno 300.000 e passa. Però mi ripeta, perché non ho capito, se lei ritiene che sia più pericoloso la soglia raggiunta oppure la vischiosità di questa soglia, cioè che poi raggiunta questa soglia si resti lì. No, ovviamente per ridurre il tasso di disoccupazione ci vorrà un po', perché il tasso di occupazione probabilmente continuerà magari quest'anno a essere intorno a quella soglia, e ci vorrà una crescita del PIL più sostanziale di quella che le previsioni per il 2011 sono. Quindi il tasso di disoccupazione è una variabile che si muove molto lentamente, quindi non possiamo pensare di tornare al 6% in un anno, ci vorranno un po' di anni, e non è detto che con le previsioni del PIL che abbiamo il tasso di occupazione diminuisca. Quindi questo, l'8% è un numero per la storia italiana non clamoroso. Il numero non che è clamoroso, hai ragione. Non è clamoroso, no, non è clamoroso. Guardi che nel 98 era il 12, la cosa. Quindi il numero che invece guardavamo con attenzione era il tasso di occupazione, che erano fatte 100 il numero di potenziali lavoratori tra 15 e 64 anni, quanti lavorano. E lì siamo sul 56, però un numero che si dovrebbe puntare è intorno al 70, 7 su 10, noi siamo intorno al 57, questo era il famoso numero di Lisbona, ormai Lisbona ormai è morto e sepolto. No, però quello è morto e sepolto a Lisbona più che il trattato, se va avanti così, perché con i problemi che ha finanziari. No, invece una cosa, lo spiego anche agli ascoltatori, dal 98 in poi, quando lo ripeto perché alcuni non hanno capito, quando la disoccupazione era tra 12 e 13%, c'è stato un calo continuo della disoccupazione. Esatto. Per cui nel 2004 quello che commentavamo era un buon dato rispetto al 2003. Eravamo in discesa. Era in discesa, immaginatela come una curva che dal 98 continua a scendere. Perché si aumentava, cioè perché diminuiva costantemente la disoccupazione. Poi nel 2008 con il crack finanziario e poi 2009 soprattutto, 2010 si è invertita, cioè la curva della disoccupazione è tornata a salire, e adesso siamo arrivati, se uno tracciasse un'ordinata, una linea, siamo tornati al livello di disoccupazione del 2004, che sono d'accordo con lei, professore, non è drammatico, è brutto, ma non è drammatico. Mi dà un commento però anche sui disoccupati giovanili, perché insomma vedere che nel 2010 siamo arrivati al 28, al 29,8%, a me fa spavento. Questo è il numero che è quasi il nuovo dilemma sociale in Europa, è un fenomeno non solo italiano, è un fenomeno europeo, e questo purtroppo cos'è? È la conseguenza di una crescita dell'occupazione giovanile che c'è stata, però era una crescita tutto sommato con posti instabili e un po' precari, no? E questo ovviamente durante la recessione sono stati, uno, sono venuti meno molti di questi posti di lavoro, e due, non sono stati assunti nuovi giovani. Quindi la combinazione dei due ha creato un tasso di disoccupazione giovanile intorno al 30%, che raggiunge, se guardiamo le donne al mezzogiorno, 40%, numeri impressionanti. È un fenomeno europeo, non è un fenomeno italiano, ma è un fenomeno che rischiamo di perdere una generazione, perché questi qui questi giovani non troveranno lavoro in fretta nel prossimo anno. Quindi questo è il numero più da seguire a livello di politica economica, non facile da risolverle. Non facile, ecco. Non facile da risolvere, ovviamente ci vorrebbe, dobbiamo fare una cosa, quali strumenti di politica economica o di riforma del mercato del lavoro, sì. Tra l'altro qualche proposta ne abbiamo fatta, tuttavia è il numero più clamoroso, perché qui è una generazione intera che rischia di stare fuori dal mercato del lavoro. Mi scusi, cosa risponde a chi ci scrive? Poi la saluto veramente, a chi ci scrive, ma insomma sì, cresce l'occupazione degli immigrati e cala moltissimo quella degli italiani, perché gli immigrati accettano di fare lavori a stipendi da fame sostanzialmente. Beh, indubbiamente molto basse, se non dicono da fame, sì, dicono sono molto basse. Insomma, è una legge dura, a volte dura anche della domanda e dell'offerta, per cui è vero che alcuni salari, in alcune anche condizioni di lavoro, sono più accettabili dai lavoratori stranieri, che spesso sono anche magari meno qualificati. Questo è verissimo, poi potrebbero addirittura anche essere lavori non sempre regolari. C'è un tema che rischia di esplodere, ossia dopo che il Tribunale di Genova ha dato ragione al ricorso presentato da 15 precari della scuola, stabilendo un risarcimento record, adesso si teme possono arrivare altri migliaia di ricorsi e il governo dovrebbe essere a quel punto costretto ad assunzioni in massa. Ci racconta la storia e i rischi la nostra Piera Ceci. Il pallino è ora in mano al Ministero della Pubblica Istruzione, che nei prossimi giorni metterà in campo due iniziative. Da un lato impugnerà i ricorsi contro la sentenza del Tribunale di Genova, che ha riconosciuto un risarcimento di 30.000 euro a testa per 15 lavoratori precari, insegnanti ma in maggior parte personale ATA. Dall'altro studierà un intervento legislativo per cercare di sterilizzare gli effetti nella scuola della direttiva comunitaria in base alla quale un datore di lavoro non può adottare un contratto a tempo determinato per oltre 3 anni. Queste le cifre di cui parliamo. Sono 65.000 lavoratori della scuola con almeno 3 contratti annuali di fila che potrebbero dunque fare ricorso al giudice. Il costo totale dei risarcimenti sarebbe di 2,5-3 miliardi di euro, non i 6 di cui si era parlato in principio e che avevano fatto saltare sulla sedia il ministro dell'economia Tremonti. A questo punto sta valutando il governo, che ha anche incontrato nei giorni scorsi i sindacati, tanto vale assumerli questi 65.000 lavoratori, ci costerebbe meno. Marco Paolo Nigi, segretario generale SNALS Scuola. Che il ministro ha detto di 65.000, se ho capito bene, lei parla in 3 anni, sono troppo pochi, che non li risolve il problema. Dobbiamo dare il ruolo per esaurire i posti disponibili che ci sono sull'organico di diritto. E secondo i nostri conti sono almeno, considerando che sono 35.000 pensionamenti e altre questioni di ingresso, sono almeno 30.000. quest'anno. Ecco, però il governo dice questi costi sono altissimi, insomma, il governo dice non ci possiamo permettere tutta questa spesa. Non c'è il rischio anche che questo aggravio di spesa vada a ripercuotersi sulla scuola stessa, che già in questo periodo, come sa benissimo, soggetta a tagli pesantissimi? Sì, non è così, perché non è vero che ha un costo. Il supplente precario oggi costa di più di un tempo indeterminato, perché per il precario si paga, oltre tutte le contribuzioni e il fisco di tutti, paga anche una parte che sono soggetti all'INPS, poi si dà anche un TFR a fine rapporto, perché si chiude il rapporto per poi riaprirlo. Dov'è il problema? È che una volta assunto a tempo indeterminato gli scatta la cosiddetta ricostruzione di carriera sui gli anni pre-ruolo. Allora, noi siamo anche disposti, l'abbiamo anche detto, raffreddiamo questa ricostruzione di carriera, magari prolunghiamola senza perderla di 2 anni, di 3 anni, pur di immettere in ruolo tutti, perché allora non ci sarebbe aggravio di spesa. Dunque potrebbe scattare un'assunzione di massa nel personale della scuola per evitare ulteriori cause, ma perché non approfittare di questo momento per affrontare una volta per tutte il problema della scuola? Ecco la proposta del giuslavorista e parlamentare PD Pietro Ichino. Il diritto europeo non ci consente di mantenere l'attuale dualismo caratteristico del nostro mercato del lavoro, del tessuto produttivo, sia nel settore pubblico che nel settore privato. La direttiva europea numero 70 del 99 innanzitutto vieta di utilizzare il lavoro precario come forma normale di ingaggio dei lavoratori, e ormai noi nel nostro settore B o C, sia pubblico che privato, invece questa è la normalità. Ora, come si può cambiare? Evidentemente noi non possiamo pensare di estendere l'attuale diritto del lavoro sia nel settore pubblico sia nel settore privato, con tutta la sua rigidità e tutti i suoi costi, estenderlo a tutti i 18 milioni e mezzo di lavoratori dipendenti, perché il sistema non lo reggerebbe, in particolare nel settore pubblico lo Stato non reggerebbe il costo di questa operazione, che sarebbe di molti miliardi. Si calcola che per tutto il settore pubblico questo porterebbe a una spesa di 15 miliardi in più, ma soprattutto a rigidità insostenibile. Fatta questa opportuna premessa, dunque, quale potrebbe essere secondo lei la soluzione? Io dico che bisogna tirare una linea e da oggi in avanti, per tutte le nuove assunzioni, occorre un nuovo diritto del lavoro che sia davvero applicabile a tutti. Quindi nel settore del pubblico impiego, tutti a tempo indeterminato, ma nessuno inamovibile, e con una disciplina normativa ed economica del rapporto che possa essere applicabile a tutti. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Allora, vediamo il commento di questa borsa, ultima borsa della settimana. Devo dire, chiusura positiva, più 1,11%, meglio Francoforte più 2%, Parigi più 1,60%, Londra più 1,70%, e l'euro che riconquista quota 1,42. Si era temuto in mattinata, Livia, per temuto, insomma, lo scivolone di Banca Intesa. Sì, infatti Milano a metà seduta viaggiava sotto la parità proprio per lo scivolone di Banca Intesa, perché appunto iniziano a concretizzarsi i timori degli investitori sulla necessità per le banche italiane di chiedere nuovamente soldi al mercato, e questa mattina appunto Intesa San Paolo, dopo le indiscrezioni stampa su un possibile aumento di capitale da 5 miliardi di euro, ha dichiarato che la posizione sul tema verrà comunicata al mercato dopo le riunioni che sono in calendario per il prossimo 5 aprile, quindi sostanzialmente non ha smentito la possibilità di un aumento di capitale. Però questo è bastato, almeno da quello che vediamo, a far recuperare il titolo. Poi non so se si siano stati altri movimenti o acquisti, diciamo, di pacchetti grossi, però il titolo alla fine obiettivamente ha recuperato tutto e ha chiuso anche leggermente positivo l'1% nel finale, leggermente positivo anche Unicredito più 0,20%, anche qui rassicurazione di Manfred Bischoff, uno dei consiglieri. Sì, infatti il consigliere di Unicredit, che rappresenta gli interessi tedeschi, ha dichiarato che al momento la banca ha una base di capitale adeguata, e cosa che vale anche per il prossimo futuro, quindi sostanzialmente ha detto che non c'è la necessità di ulteriori ricapitalizzazioni. Miglior titolo oggi tra quelli a maggiore capitalizzazione, Mediolanum più 2,90%, poi veniamo al capitolo Fiat, però Mediolanum. Sì, allora Mediolanum bisogna dire che dalla pubblicazione dei conti il 29 marzo ha guadagnato circa il 6,5%, quindi anche oggi ha confermato la tendenza a rialzo. La società ha chiuso appunto l'anno scorso con un utile netto pro forma di 224 milioni, in crescita del 3%, ed Ennio Doris, il patron di Mediolanum e fondatore, ha sottolineato che la società non ha bisogno di chiedere nuovi capitali al mercato in vista dell'introduzione delle nuove regole di Basilea 3 nel 2013. Era un pesce d'aprile, dicono su Banca Intesa. No, no, il mercato non crede pesci d'aprile. Andiamo avanti. Parmalat. Allora, intanto devo dare una notizia appena battuta dalle agenzie e che si riferisce al decreto cosiddetto salva Parmalat. In realtà è il decreto del governo, di cui parleremo anche più avanti, che permette l'ingresso del tesoro attraverso la Cassa Depositi e Prestiti nelle società di rilevante interesse nazionale. Ebbene, poco fa Bruxelles ha detto che il decreto sarà esaminato attentamente dalla Commissione europea per valutare se le regole del mercato unico europeo sono rispettate, e agirà Bruxelles se così non dovesse essere. Chiuso l'aggiornamento, Parmalat, come siamo mossa oggi? Sì, allora Parmalat ha guadagnato ancora, ha guadagnato l'1,18%, oggi il CDA ha deciso, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di rimandare l'assemblea degli azionisti del gruppo, prevista inizialmente per aprile, è stata rimandata quindi al 25, 27 e 28 giugno, e quindi in sostanza Parmalat prende tempo per preparare una controffensiva ai francesi di Lactalis, che oggi sono azionisti col 29%. Intanto Intesa San Paolo, Mediobanca, Unicredit continuano a compiere manovre per la realizzazione della cordata italiana. È circolato poi una mente smentita anche il nome di Barilla, ma insomma i nomi che si sono fatti nel passato sono quelli di Ferrero. E poi comunque il tentativo, di solito queste cose si fanno e poi si dicono, è di creare la cordata. Fiat Exor più 2,86, Fiat più 2,66 come auto e Industrial più 1,60%, in attesa dei dati sulle matricolazioni. Sì, infatti in particolare Exor, il socio di riferimento di Fiat, si trova in un trend positivo, infatti anche oggi ha guadagnato più delle società operative, quindi di Fiat e di Fiat Industrial. Il mercato, il settore dell'auto oggi è andato bene in Europa dopo il calo della vigilia, appunto stasera, ma tra qualche minuto, verso le 18, avranno essere pubblicati i dati relativi alle matricolazioni di auto in Italia. Miglior titolo De'Longhi più 7,6%. Sì, no, in realtà su De'Longhi non... È il caldo? Oggi, di solito dicono così, non so anche se per questa volta... Beh, c'è caldo, no? Questa volta. Beh, assolutamente sì. Va bene, classe editori meno 8,80, la Lazio meno 5%, Centrale del Latte meno 4,40, Premuda meno 4%, bene anche le Bastoggi più 5,96%. Nuovi accordi in Argentina per l'Enel, quindi torniamo ai titoli a maggiore capitalizzazione. Il titolo guadagna l'1%, bene anche Eni oggi, più 1,85%. Enel. Sì, allora Enel appunto ha guadagnato l'1,08%, appunto secondo gli operatori si tratta dei nuovi accordi in Argentina, mentre Enel Green Power invece prima perdeva di più, ha chiuso poi a 0,15%, e per quanto riguarda Enel Green Power si dovrebbe essere trattato solo di realizzi dopo il rally del titolo, che dal collocamento in borsa ha guadagnato circa il 25%, arrivando nelle scorse sedute a quota 2 euro. Continua a crescere Diasorin più 2,22%, ci sono novità oggi? No, oggi no, secondo gli operatori appunto è sempre il trend ascendente di ieri e dell'altro ieri, grazie a giudizi positivi. Esatto, bene, oggi anche altri titoli, però vorrei, Terna, ieri sono usciti i conti, come è andato il titolo oggi? Allora, oggi il titolo ha chiuso con un più 0,83% ed è arrivato a quota 3,4 euro, che è proprio il doppio rispetto al prezzo a cui era stata quotata la società nel 2004, a 1,70 euro. E quindi sì, vale il doppio il collocamento di Terna in borsa. Migliori e peggiori li abbiamo detti, vi aggiungo semplicemente CDC Point più 4,22%, il gruppo L'Espresso più 4,6%, bene anche appunto Telecom Italia Media più 5,7%. Buon fine settimana a te, Livia, a tutti i colleghi di Radio Colle sulle 24 ore. Grazie anche a voi. Commentiamo subito, come vi ha anticipato il nostro GR, i dati appena usciti sul mercato dell'auto nel mese di marzo. Di nuovo un tonfo rispetto a marzo del 2010. La variazione percentuale è infatti del meno 27,5%. Va detto, e fa obiettivamente notizia, che da un lato Alfa Romeo, vediamo quindi i marchi Fiat, fa più 51%, mentre il marchio Fiat fa meno 40, meno 39,8%, quindi peggio della media di mercato. Lancia meno 22%, quindi leggermente meglio del calo del mercato, male anche Peugeot, meno 48,9, Renault meno 48,9, 13,6%. Vado, li sto leggendo praticamente assieme a voi. Toyota più 13,6%, quindi bene Toyota, ferma ma meglio della media Volkswagen più 2,1%, e poi ancora Opel meno 20%, meno, quindi perde ma meno della media. Mi sembra di aver riunito i principali: Audi più 6,5%, BMW più 3,8%. Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor, la voce di Radio 24 quando parliamo di dati auto. Buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, Seat più 2,2%. Primo commento sul calo complessivo meno 27,5% e poi però sui marchi Fiat. Il calo è peggiore del previsto, ci si aspettava un calo un po' minore, e poi soprattutto perché poi ci sono anche altri elementi, ad esempio che riguardano l'acquisizione degli ordini e il traffico di visitatori nelle showroom, che è un indicatore importante di un'eventuale ripresa dell'economia, che sono pure negativi. Quindi è un dato peggiore di quello che ci si attendeva, anche se ci si attendeva un dato fortemente negativo, perché il confronto si fa con marzo 2010, che era l'ultimo mese in cui vi furono gli incentivi. Per quello che riguarda il marchio Fiat, direi che non c'è niente di nuovo rispetto al passato. Il marchio Fiat paga pesantemente due aspetti. Il primo è che, avendo una gamma molto favorita dagli incentivi l'anno scorso, quest'anno paga il fatto che non ci siano più incentivi. Mm-hmm. Il secondo aspetto è che, soprattutto il marchio Fiat non ha presentato modelli sì. E quindi naturalmente... E questo si vede bene invece su Alfa, che avendo il nuovo modello, la Giulietta, guadagna, immagino che sia per quello, perché Alfa Romeo fa più 51%. È proprio per quello. Quindi sono i modelli a far la differenza, lo sappiamo, ma insomma oggi ancora di più confermato. Seconda domanda, così mi collego anche a una richiesta di un ascoltatore che dice: negli ultimi 10 anni c'è stato un gigantesco trasferimento di ricchezza dal reddito fisso al reddito variabile, immagino che si riferisca dal lavoro dipendente al lavoro autonomo, la capacità di risparmio si è ridotta. Ma insomma, unendo questa domanda al commento con i dati auto, non è strano notare che marchi di auto molto care, mi riferisco ad Audi, BMW, ma non solo, vanno bene, mentre anche Ford perde il 44%, cioè voglio dire, gli incentivi c'erano per tutti un anno fa, eppure i marchi della fascia più alta non solo non perdono, come fa tutto il resto del mercato, ma guadagnano anche qualcosa. Beh, non è proprio così, perché gli incentivi l'anno scorso favorivano soprattutto le piccole, e quindi i marchi, diciamo, di prestigio l'anno scorso andavano abbastanza male, quest'anno recuperano. E poi c'è un dato, l'ascoltatore ha ragione, anche se poi la contrazione del reddito fisso, o comunque l'invarianza del reddito fisso, è andata soprattutto ad impinguare non tanto i proventi del lavoro autonomo, ma soprattutto le rendite, ma di fatto i consumi di lusso non sono mai penalizzati nelle situazioni di difficoltà. C'è una elite che ha una quota di reddito molto superiore a quella che le competerebbe in una situazione di equidistribuzione del reddito, e di conseguenza non sente la crisi economica. E questo si vede anche nei dati sulle immatricolazioni. Non so se valga, forse no, il detto mal comune mezzo gaudio. Faccio notare che però alcune concorrenti dirette di Fiat, Peugeot, Renault, ma anche se vogliamo Ford, perdono più del marchio Fiat, dal 44 al 48%. Beh, qui sì, forse non è mal comune, causa comune. Anche qui questi erano marchi che avevano molto beneficiato degli incentivi, quindi la causa è la stessa. Adesso poi ci possono essere variazioni di qualche punto. Ma vale anche lì il ragionamento fatto sulla Fiat, cioè se mancano i modelli poi, oppure più il peso degli incentivi? Qui non tutti, non per tutti questi marchi si può dire che manchino i modelli, ma i modelli comunque... più interessanti che sono stati presentati sono nei segmenti intermedi più che nei piccoli segmenti, quindi questi marchi, che sono marchi generalisti, più o meno soffrono degli stessi mali di Fiat. Grazie a Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor, e buon fine settimana anche a te. Grazie, arrivederci. Che Che fine ha fatto il Marchionne's Touch, il tocco di Marchionne? Lo diciamo da 2-3 mesi, da prima del referendum a Mirafiori. Dopo aver parlato dei modelli contrattuali, è il caso che la Fiat si concentri sui modelli di auto. È noto che quest'anno, mi sembra che a novembre dovrebbe arrivare qualcosa, ma modelli ce ne sono molti molti pochi, per meglio dire nessuno. Invece oggi debutta la 500, la Fiat 500 negli Stati Uniti, è praticamente il ritorno della Fiat sul mercato americano. Le nuove 500 per il mercato americano costano $19,500 e possono essere acquistate versando una caparra da $500, il resto si paga con rate mensili di $250. La cosa interessante è che con un gallone di benzina, che sono 3,70 litri, riesce a fare quasi 61 km. In America è un vero record. Poi volete parlare degli stipendi dei manager, adesso io vorrei occuparmi di Parmalat, del decreto salva Parmalat, però su Sole 24 ore di ieri, sul sito online, è uscita la classifica dei manager più pagati nel 2010 grazie alla buona uscita da Unicredit. È stato Alessandro Profumo il manager più pagato nel 2010, 40 milioni di euro lordi, tra diciamo soprattutto dovuti alla buona uscita di 38 milioni. Solo in proporzione Romiti superò nel 1998 quel record, quando lasciò la Fiat dopo 24 anni al vertice, incassò 101 milioni di euro lordi, all'età di 75 anni erano quasi 200 miliardi di vecchie lire, e poi soprattutto nel 98, quindi andrebbe considerata anche l'inflazione. Matteo Arpe invece ottiene da Capitalia 37 milioni, quindi di poco sotto Profumo. Comunque, tornando all'anno scorso, Cesare Geronzi è sugli stipendi 2010 al quarto posto con 5 milioni di lordi complessivi. Davanti a Geronzi infatti c'è Marco Tronchetti Provera con 6 milioni e 350 mila euro lordi, l'8% in più di quanto guadagnato nel 2009. E il numero 2 della classifica è ancora provvisorio, è Luca Cordero di Montezemolo con 8 milioni e 730 mila euro lordi di compensi complessivi, il 70% in più del 2009. Montezemolo ha guadagnato più del doppio di Sergio Marchionne, che ha ricevuto, si fa per dire, solo 3 milioni e 470 mila euro, ma appunto pagando le tasse in Svizzera, ce ne siamo già occupati, paga solo il 30% di imposte, risparmia quasi mezzo milione. Adesso traffico e poi ci facciamo raccontare, anzi già in collegamento, quindi lo saluto, ringrazio per averci raggiunto in collegamento, Mario Resca, che attualmente è direttore generale per la valorizzazione del patrimonio del Ministero dei Beni Culturali, ma è stato non solo il numero uno per molti anni della McDonald's in Italia, ma soprattutto, per quello che ci interessa, il commissario straordinario del gruppo CIO del Monte, quando, dopo il crack di Cragnotti, il gruppo era fallito e si dovette procedere a una cessione di alcuni asset e poi al risanamento del gruppo. Buonasera, dottor Resca. Buonasera a lei e a tutti i suoi ascoltatori, Valigione. Ricordo, la Cassa Depositi e Prestiti, che è il braccio finanziario del Tesoro, potrà infatti assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale che possono essere acquisite anche attraverso veicoli, appunto, o fondi partecipati alla Cassa Depositi e Prestiti per salvaguardare livelli occupazionali o appunto società di rilevante interesse nazionale, inclusa Parmalat e incluso il settore alimentare. Ce ne stiamo occupando con decine di interviste da 3 settimane, abbiamo avuto di tutto, da Prodi a Trapani a vari economisti, e adesso vorrei sentire l'opinione anche di Mario Resca, però prima un rapidissimo aggiornamento proprio su Parmalat. Perché oltre alla risposta europea, agiremo se il decreto non rispetta le norme europee, arrivata poco fa, è arrivata anche una smentita del gruppo Barilla, dopo che hanno circolato delle indiscrezioni su questo. Il gruppo Barilla ribadisce di non essere mai stato interessato all'azienda di Collecchio, smentisce di avere in programma alcun tipo di incontro relativo al possibile ingresso nella suddetta cordata che sta cercando di organizzare, devo dire un po' faticosamente, il gruppo Intesa San Paolo, ma c'è anche un increto adesso della partita. Allora, direttore Resca, lei in sostanza, quando l'acirio di Sergio Cragnotti fece il crack, 35.000 risparmiatori coinvolti, 1 miliardo e 120 milioni di euro, un'inchiesta che ha riguardato anche la magistratura, Cirio era un colosso, controllava attraverso la del Monte Pacific il 35% della produzione mondiale di ananas. Nelle Filippine controllava la più grande piantagione di ananas al mondo. Pensate che c'erano oltretutto anche quasi 5.000 capi di bestiame che venivano nutriti con gli scarti dell'ananas, con la buccia. E poi invece tutta la storia fa sì che lei risani la Cirio, si arriva a settembre 2004 quando un gruppo italiano, Conserve Italia, acquisisce la Cirio De Rica pagandola 170 milioni di euro, e quindi una storia virtuosa. È rimasta un'azienda in Italia, risanata, rimasta in Italia la Cirio grazie a un'acquisizione italiana. Allora, qual è stato il segreto, il trucco? Perché su Parmalat, secondo lei, non è stato possibile o non si riesce a fare questo, o si ricorre a un decreto? Ma guardi, se ricordiamo un attimo la vicenda Cirio, lì si lavorò sotto la legge che oggi è chiamata Prodibis, per la quale i commissari hanno l'obiettivo di riportare in equilibrio economico e finanziario l'azienda, e questo fu fatto. L'azienda era un gruppo composito che aveva non solo attività nel settore del pomodoro, ma aveva un'azienda agricola con 4.000 capi di bestiame, azienda del settore del pane, della cartotecnica, sparse in quattro continenti che sono l'Europa, l'Africa con grandi piantagioni anche lì in Kenya di ananas, in Sud America, in Brasile, in Estremo Oriente, Filippine e Thailandia. Comunque, quindi un impegno enorme nel tenere in piedi intanto l'attività nel periodo di amministrazione, e avevamo l'obbligo, Prodibis, comunque cedere le attività una volta che si era tentato il risanamento, cosa che è avvenuto, e siamo riusciti a venderle tutte. La cosa interessante è che tutte le attività sono state vendute ancora oggi, parliamo del 2004, fine 2004, 2005, tutte sopravvivono nonostante la grande recessione mondiale, sono tutte vivono, nessuna di queste è fallita, quindi se vuole questo è anche, alcune di queste erano in Italia, che lei ha ricordato, la Conserve Italia che ha comprato attraverso gara a evidenza europea e si è aggiudicata a suo tempo la Cirio De Rica, la parte agricola, 4.000 capi di bestiame, l'ha comprato un gruppo nel settore agricolo capeggiato Carla Benetton, nel settore del pane è stata acquisita da un gruppo fiorentino e ancora oggi sopravvive bene, devo dire. Quindi direi che mentre il gruppo Parma nasce con l'obiettivo di gestirla e continuare a gestirla, quindi una volta che è stata, i debiti come sono stati, sono rimasti nella bad company, si considera una good company. Tra l'altro va detto un'altra cosa, che poi la maggioranza degli azionisti di Parmalat oggi sono proprio fondi di investimento. Allora adesso arriviamo alla Parmalat, perché lei ha spiegato come avete risanato la Cirio, cosa avete venduto anche per obbligo di legge della Prodibis, e non è una cosa da poco che comunque le cessioni fatte, anche e soprattutto quelle ad aziende italiane, sono tuttora sane, cioè non sono state delle svendite. Vorrei arrivare a Parmalat e vorrei capire da lei, che è stato anche presidente della Camera di Commercio americana in Italia, oltre che di McDonald's, il problema di questo paese è che ci sono troppo pochi investimenti stranieri, o che ce ne sono troppi e quindi ci stanno colonizzando, ci stanno rubando i gioielli? Guarda, il problema è duplice. La prima è che noi non abbiamo grandi aziende in generale, abbiamo meno multinazionali della Svizzera, giusto nei vari settori. La seconda considerazione da fare è che noi siamo tradizionalmente, ahimè da un paio di decenni ma più, uno degli ultimi paesi in Europa per investimenti stranieri. In realtà è l'opposto, cioè le aziende in Italia, dall'estero in Italia vengono malvolentieri e investono poco. E quelle che ci sono, la recessione è in atto, voglio dire già dal 2008, quelle che oggi ci sono, multinazionali, aziende straniere, là dove abbiamo evidenza, notizie di aziende che se ne vanno. Quindi questo è un problema. Terza considerazione, le aziende o crescono o scompaiono, cioè l'azienda è una struttura economica che è condannata a crescere, la globalizzazione, la produzione dei mercati ha dimostrato che il consolidamento, la massa critica, la dimensione è un vantaggio competitivo, perché diversifica il rischio, attrae management di grande valore, puoi fare ricerca e sviluppo. Quindi il gruppo Parmalat, che ha creato cassa ed è stata gestita, devo dire, con grande capacità nel recuperare soldi e nella razionalizzazione, in realtà o acquisisce, avrebbe dovuto, adesso è il mio modesto parere, al di là delle cose splendide che sono state fatte dal commissario, che ha peraltro mi pare molta liquidità in cassa, o cresceva e acquisiva, trova opportunità di crescita, oppure vieni acquisito perché la debolezza, la dimensione... Non è sufficiente, è chiaro. Quindi insomma, lei dice o Parmalat fa lei la cacciatrice o diventa preda. Ultima domanda, ho ancora un paio di minuti. Per tenere Parmalat italiana, io tifo sempre per l'italianità, però nel rispetto diciamo del mercato, per tenere Parmalat italiana, la convince il decreto oppure lei avrebbe preferito una soluzione in cui, non so, Granarolo, Ferrero, Barilla, tutti i nomi circolati in queste settimane, fanno un'operazione e si crea un boccone così grosso da non essere a quel punto acquisito, da non essere più preda? Ma guardi, noi siamo italiani, facciamo il tifo per l'Italia, per l'economia, per le aziende italiane, ovviamente. No, io credo che questo decreto sia un decreto molto difensivo e non dà un buon esempio al libero mercato. La cosa che si avrebbe potuto fare era quella di fare entrare i nuovi soci italiani con un progetto di, se vuole, acquisizione, quindi aumento di capitale, chiedo nuovi soldi per essere Parmalat la capofila di acquisizioni anche internazionali, riacquisendo per esempio anche quella che è la Parmalat Brasile che è stata venduta e poi è cresciuta, cioè chiamare attraverso aumento di capitali altri investitori anche nel settore, perché il settore alimentare è un settore dove l'Italia ha delle cose da dire, però ripeto, noi soffriamo di nanismo, in realtà a parte Barilla, Ferrero, che sono due esempi splendidi, ma c'è poca roba per quella che è la potenzialità dell'Italia, ma questo ripeto, noi soffriamo di crisi dimensionale, di nanismo, questa è la mia opinione. Sì, io temo che tra l'altro sono d'accordo che il decreto è molto difensivo e proteggere serve a poco, poi a un certo momento il mercato è più forte o diventi non competitivo e fallisci tuo o prima o poi qualcuno ti compra. Comunque, direttore Resca, io le prometto che invece tornerà il nostro ospite per parlare di un altro tema che mi interessa molto, che è quello che lei sta facendo adesso, cioè l'industria culturale. Come valorizzare sto patrimonio di cui ci riempiamo sempre la bocca, che però poi non sappiamo vendere nemmeno come i francesi. E quindi la mia promessa è che torniamo a parlare anche di quello. Grazie nel frattempo al direttore generale per la valorizzazione del patrimonio del Ministero dei Beni Culturali, Mario Resca, che a suo tempo appunto fu il commissario straordinario del gruppo Cirio del Monte. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, non mi resta che ringraziare come sempre Mauro Del Cone e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Ci risentiamo lunedì. Radio 24. La passione si sente.